15.000 manifestanti giunti da tutte le parti della Sicilia, con delegazioni importanti e significative dalla Val di Susa, da Vicenza, penso particolarmente alle donne del Nord al Molin, e da diverse realtà che si oppongono ai processi di militarizzazione e di cementificazione dei territori un po' da tutte le parti d'Italia. Alla manifestazione ha avuto due grossi momenti: un corteo che per tutto il pomeriggio ha circondato con veramente un fiume umano la grande struttura militare presente a Niscemi, operativa già da 20 anni. Si tratta di una delle principali basi USA di telecomunicazioni della Marina Militare Americana a livello planetario, dove dovrebbe sorgere l'installazione del MUOS, che si è conclusa proprio di fronte al cancello della base, con un microfono aperto dove sono alternati i rappresentanti dei comitati no MUOS regionali e il portavoce dei movimenti nazionali giunti a Niscemi. Una seconda parte della manifestazione si è svolta in serata nel centro storico di Niscemi, dove veramente c'è stato veramente questo abbraccio straordinario con gli abitanti, gli anziani, le donne straordinarie di Niscemi, conclusosi poi con lungo happening, un concerto nello stadio a cui hanno veramente partecipato migliaia di persone giunte da buona parte delle località vicino a Niscemi. Ascolta, già insomma, il risultato positivo è appunto la grossa mobilitazione e la partecipazione che c'è stata al corteo del 30, ma c'è stata anche una risposta da parte della regione Sicilia? Sì, c'è stata una risposta che chiaramente noi definiamo fuori tempo massimo, con ritardo, eccetera. Proprio alla vigilia della manifestazione il presidente Crocetta ha confermato di aver revocato le autorizzazioni ai lavori all'interno della riserva naturale Sugheneta, perché paradossalmente questa struttura di morte e di guerra si sta realizzando all'interno di un'area protetta con autorizzazioni totalmente illegali che erano state date qualche anno fa dall'allora governatore Raffaele Lombardo. Dico in tempo, fuori tempo massimo, perché era un atto dovuto, era un atto che si attendeva da mesi, e purtroppo sono stati veramente i sacrifici di centinaia e centinaia di donne, di giovani che si sono alternati in questi mesi al presidio di Niscemi, con una vigilanza 24 ore al giorno dei cancelli e delle vie d'ingresso e con una serie enorme di blocchi stradali per impedire che i camion che trasportano gli operai e le infrastrutture per la realizzazione del MUOS potessero entrare. Di fatto una revoca che è stata adottata, che è stata realizzata, che è stata effettuata dal basso, dalla gente, e solo proprio alla fine ha convinto gli amministratori regionali a revocare quelle autorizzazioni che tra l'altro la stessa procura di Caltagirone aveva dichiarato illegali, illegittime, in perfetta violazione delle normative urbanistiche. Oggi si apre una nuova fase, che è quella di imporre al governo che uscirà nei prossimi giorni e al nuovo Parlamento la revoca reale attraverso una mozione che dica chiaramente no all'installazione del MUOS in Sicilia o qualsiasi parte del nostro paese, l'imposizione agli americani di smantellare quanto già realizzato e di aprire un'avvertenza per lo smantellamento delle 46 antenne già esistenti all'interno della base di Niscemi. Voi, insomma, insieme ad altri movimenti, come penso al movimento No TAV e ad altre realtà che esistono, hai nominato anche il No dal Molin e altre realtà che esistono anche qui nel territorio romano contro le discariche, che è appunto una pressione e una partecipazione grossa da parte delle persone nei territori, funziona nella misura in cui, insomma, si può, insomma, decidere del proprio territorio e delle proprie vite. Infatti voi siete attivi, se non mi sbaglio, dal 2009 e continuate, insomma, questa battaglia, continuerete questa battaglia. Sì, io credo che questa vicenda di Niscemi, insieme alla vicenda di Val di Susa o di chi veramente a livello territoriale si oppone alle discariche, alle grandi antenne, ai processi di militarizzazione, sia la dimostrazione che il rifiuto della delega, la partecipazione diretta, l'azione diretta paga. sia in termini di risultati concreti, di fatto bloccando o impedendo, sospendendo questi processi di distruzione del territorio, dall'altra parte anche come autoformazione politica. In questo anno che è passato la gente di Niscemi è cresciuta tantissimo, una battaglia che era iniziata con una problematica esclusivamente o quasi esclusivamente di tipo ambientale, di rifiuto elettromagnetico, che oggi è diventata una grande battaglia sui valori della pace, del rifiuto alla guerra, dei rifiuti dei processi di militarizzazione del territorio, con una fase di crescita in questo mese di lo scorso mese di marzo straordinario del nostro paese, perché quella di Niscemi di sabato scorso è stata inserita in una serie di iniziative che sono partite il 16 marzo nello stretto di Messina per ribadire il no al ponte, che sono continuate poi sabato 23 in Val di Susa per impedire questo scempio dell'alta velocità ferroviaria in questa valle straordinaria, e che poi in un filo comune hanno visto la lotta alla militarizzazione. Mi sembra una fase importante per tutti i movimenti, per la costituzione reale di una rete che dal basso imponga veramente un cambio straordinario nelle logiche di distruzione del territorio e di militarizzazione che sono state fatte purtroppo dai governi precedenti. Noi ti ringraziamo per il tuo contributo e continueremo a seguire il NUMOS e tutti, insomma, le iniziative che porterete avanti, perché come dici tu è molto interessante tutto il processo, non solo appunto i risultati il processo di crescita che hanno le persone, i cittadini appunto nell'interessarsi e nel costruire battaglie per il proprio territorio. Quindi ti ringraziamo, se non vuoi aggiungere altro ti salutiamo e magari ci risentiremo nei prossimi giorni. Con piacere, grazie tantissimo e buon lavoro. Grazie anche a voi.